24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Che io chiedo a Padre Pio che ci aiuti a tenere Berlusconi vicino. I nostri figli hanno bisogno di Berlusconi, perché Berlusconi è una persona stupenda. Gli hanno fatto tante cose che non dovevano fare, tutto tante. Se siamo nelle mani di Padre Pio, vuol dire... Padre Pio lo aiuta. Basta, Padre Pio lo aiuta. Stia tranquillo, ok? Stiamo tranquilli allora. Padre Pio aiuterà Silvio Berlusconi, o meglio, Padre Pio magari ci potrebbe più prosaicamente semplicemente aiutare in questo. Capire quando finirà questa telenovela giunta alla puntata numero 5932 della decadenza o non decadenza di Silvio Berlusconi, e che poi è legata alla tenuta o no del governo italiano. Ecco, sempre più faccio mio l'appello di Filippo Facci qualche giorno fa su Libero: quando avete finito, chiamateci e fateci sapere che è successo. Non se ne può più, francamente. La giunta ha rinviato di qualche giorno, non se ne può più. Questa è la notizia certamente politica del giorno, ma ci sono altre cose di cui vorremmo parlare qui. Intanto saluto Alessandro Longoni in redazione, il nostro grande alpino Peter Bescapè in regia. E può aprire il Parlamento? Sì, apriamolo. A un caffè si può avere. Volentieri a tutti quanti. A tutti quanti. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Continui. Che non lo vuole. Hai preso anche tu i suoi favori? Trozzate col caffè della Minetti. Noi non lo vogliamo dalla Minetti. Brutto cretino d'un Milan. Vabbè, l'unica in Italia rimasta a non volere il caffè di Nicole Minetti. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Voglio subito salutare la nostra mitica Paola Saluzzi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Mancava il rullo di tamburi, ma adesso ecco. Come saluto il nostro mitico direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno. Eccoci qui. Buongiorno, allora, direttore. Allora, Padre Pio, avete sentito? Ci aiuterà lui a capire qualcosa almeno di questo. Ma mettiamolo un po' da parte, la vicenda Berlusconi. Non voglio partire da lì, non voglio parlare, a meno che non so. Luca Dini, tu vuoi parlare di questo invece? No, sì, anch'io chiederei la grazia di essere addormentato fino a quando, appunto, come dice Facci, fino a quando ci possono dire che cosa è successo. Esatto. Dormire qualche giorno e poi ecco. Poi ci telefonano, diamo i numeri di telefono, diamo il cellulare di Paola Saluzzi, Schettici 24 pomeriggio, la redazione di Vanity Fair, tutto, esatto. Io do la mia mail. Quando è tutto finito, anche via mail ho una telefonata. Allora succede, c'è il governo, sì, bene, oh, boom, non c'è, va bene, andiamo a votare. Quando si vota, boom, mettiamo giù. Allora, no, io voglio aprire, ma l'avete già sentito forse nel giornale radio. Allora, voglio parlare del Papa con voi. Bravo Alessandro, voglio parlare del Papa con voi. Perché, allora, intanto io ho letto dei titoli e si è materializzato, sapete quel luogo comune, volgare anche, spesso che si dice, il Papa o il Vaticano è per i rifugiati, se li prendano tutti in Vaticano. O che ha detto ieri il Papa? Utilizziamo, basta hotel nei conventi, apriamoli ai rifugiati politici. Ma Luca Dini è una roba, cioè rischia di materializzare quello che è il luogo comune, anche un po' bieco, delle persone che, di strada, che dicono proprio questo. Sì. E beh, diciamo, è la rivoluzione in corso, è una cosa straordinaria, devo dire, anche se quello che fa è semplicemente la missione della Chiesa, però... La cosa strana è che si sorprenda così tanto. Appunto, ma farsi tante domande. Ma perché? Perché secondo te si era perso negli anni, negli ultimi decenni, un contatto così, così diretto, l'idea o l'immagine di un Papa che parli delle cose che in teoria dovrebbe affrontare il capo di una chiesa? Si era perso un pochino questo legame con il quotidiano? Francamente sì. Francamente sì, dice. Anche per te, Paola Saluzzi, è questo un po'... Guarda, io davanti, perché l'ho strappata e conservata, la copertina del numero 28 di Vanity Fair, Francesco Papa Coraggio. E non solo la tengo perché fa bene al cuore guardarlo e vederlo, ma perché quel Papa Coraggio comprende tutto. Laddove si perde per... per tanti motivi, perché la polvere dei secoli, diciamo solo dei secoli, si va a posare, anche se dobbiamo sempre ricordare le nobilissime figure dei missionari, delle persone che si dedicano attraverso la Chiesa alla vita degli altri, quest'uomo è il respiro di Dio. Quest'uomo è arrivato, e come noi respiriamo e non ce ne rendiamo conto di respirare, perché è un'operazione normale, grazie al cielo, lui normalmente dice le cose che Francesco, di cui ha scelto il nome, diceva. È un salto di secoli che ti lascia tramortito, felicemente tramortito. No, ma come tramortito è il fatto, non so se avete già avuto modo di vedere i giornali, non credo, uno prende in mano oggi Repubblica, sì. Repubblica, le prime 5 pagine sono una lettera che il Papa ha scritto a Repubblica rispondendo a Eugenio Scalfari. Il tema è anche molto profondo, il rapporto con la fede, con la mancanza della fede. La domanda di Eugenio Scalfari di fondo è Dio perdona chi non ha fede, e il Papa prende carta e penna e scrive 5 pagine di Repubblica, molto intense per carità. E sapete come si firma? Sapete, in prima pagina l'editoriale di Repubblica oggi è firmato da Francesco, così si firma, Francesco, neanche il Papa Francesco. Beh, ma un uomo che dice chi sono io per giudicare i gay, insomma, voglio dire, mi aspetto molto altro. Ecco. Ti aspetti molto. Un mio amico stamattina mi ha scritto un messaggio, ha scritto più di Scalfari. Esatto, incredibile. L'articolessa del Papa, adesso si dirà su Repubblica, Luca Didi, ci sarà l'articolessa del Papa, non più di Eugenio Scalfari. Tante volte che capitato, ho sentito dire uno dei problemi dell'Italia è che ha dentro il Vaticano. Questa volta si può dire che è il privilegio, secondo me è il privilegio dell'Italia, cioè fa bene all'Italia questa presenza. No, certamente. Speriamo che faccia bene, insomma, anche ai nostri politici. È sicuramente una rivoluzione di comunicazione, Luca. Poi bisognerà vedere, come al solito io lo dico sempre, attenzione, cioè poi sono gli atti, quelli concreti, che portano a capire se ci saranno gli storici nella storia, se ci saranno delle svolte anche su tanti temi per i quali... Però stanno arrivando anche gli atti. Stanno arrivando anche gli atti. Comunque queste parole sono pesanti. No, questo certamente sì, e i gesti, perché si misura anche con i gesti, la figura del Papa, sono certamente rivoluzionari. E, vabbè, c'è tanto del Papa, c'è tanto di politica. No, però io prima della politica vorrei... No, sì, dai, vi devo far parlare un po' di Berlusconi. Adesso, ma come hai detto? No? Non ce la faccio, più di 5 minuti non riesco, è come una droga, più di 5 minuti non ce la faccio. No, in realtà volevo farvi sentire questa. Allora, la Presidente della Camera, Laura Boldrini, che cosa è successo ieri? È successa una bagarra, quindi non la prendiamo la politica dalla parte di Berlusconi, ma se volete mettetecelo pure dentro. La Presidente della Camera Boldrini, sentite la gaffa che ha fatto ieri quando il deputato Di Battista del Movimento 5 Stelle ha preso la parola. Sì, è vero, abbiamo sbagliato, siamo andati contro un regolamento, però il male dell'Italia oggi, quello vero, è l'ipocrisia. L'ipocrisia. Quando noi sosteniamo che il PD è uguale al PDL, non è vero, ci siamo sbagliati. Il PD è peggio del PDL, perché se... Non offenda. Il malaffare ha rovinato questa no, cosa. No, non offenda. Ma che vuol dire non offenda? La prego, usi un linguaggio consono, senza offendere, per favore. Ma che vuol dire? Ma che offesa è? Cioè, Paola Saluzzi, che offesa è? Ha detto il PD è peggio del PDL. Non offenda. Non essere pestifero, Milan. Alino pestifero. Non è che offesa è? Offenda nel senso che i toni stavano andando verso il concetto del peggio. In quel ma senso ho capito, ma peggio. Ma peggio non è, cioè voglio dire, il PD è peggio del PD, giustamente oggi Libero. Ma certo, hanno ragione i PDL a arrabbiarsi, ma certo, non era quella l'intenzione. Ma no, ma sì, vabbè, ho capito che dobbiamo fare la difesa d'ufficio della Boldrini. Il PDL oggi su Libero c'è scritto, è come se dire PDL è un insulto, il PD è peggio del PDL, non offenda! Ma che cosa dicendo tutto dire? Questo? Chiedo a voi e chiedo anche agli ascoltatori, avete presente quei film di Bud Spencer e Terence Hill, dove a un certo punto il primo tira il primo pugno, oppure i vecchi West, western. E a un certo punto tutti picchiano tutti. Io mi domandavo, ma perché tutti stanno picchiando tutti nel saloon? Chi lo sa? E così, chi lo sa? Tirano in fuggita i pugni, tutti picchiano tutti. Non si capisce più da dove siamo partiti. Al di là della gaffe, non si capisce dove siamo partiti, non si capisce dove andremo a finire. Adesso, seriamente, io ve l'ho chiesto anche la scorsa settimana, lo chiedo a tutti un pronostico. So che ormai bisogna buttarla così sul pronostico. Che succederà a Luca Dini politicamente? Perché poi l'unica cosa che interessa agli italiani di tutto questo gran casino della vicenda Berlusconi è se cade o no il governo, perché questa è una cosa che ha dei riflessi molto seri sulla vita di tutti noi. Ma è l'unica cosa, mi sembra di capire, no, Luca, che interessa alla gente. Sì, e soprattutto interessa sapere che cosa c'è, sapere che succede qualcosa, perché secondo me è l'attesa veramente il danno grosso, non è lo spauracchio alla fine, è peggio l'attesa, scusa se uso questo linguaggio offensivo, è peggio l'attesa del risultato eventuale. Sì, certo. No, soprattutto l'incertezza. Cioè, cosa può fare un governo se ogni giorno ti dicono guarda che cadi, guarda che forse cadi, no, forse no, ci pensiamo tra 48 ore, però se fai questo cadi. Cioè, cosa può fare un governo in queste situazioni? Mi domando, ecco. Paolo, nulla, infatti. Guardate, io mi rifaccio al forum Ambrosetti di Cernobbio. Sì, sì. E domenica Letta ha fatto un intervento forte e chiaro, uso un gergo fin troppo utilizzato militare, ma forte e chiaro, cioè il lavoro continua, il lavoro del governo continua. Io purtroppo, nella veste di inguaribile ottimista, continuo a pensare che nonostante tutto questo, questa pagina che alla fine dobbiamo vivere perché è questa, politicamente parlando ce la siamo trovata davanti e quindi è questa, il governo possa e debba continuare a fare. Le parole di Letta erano molto chiare, non erano quelle di una persona confusa dagli eventi, e quindi mi appello a quelle parole. Sì, cioè, tiene la barra dritta, però in realtà è chiaro che è ostaggio di questa incertezza politica, no? È vero, però mi correggo, ha ragione Paola, anche perché effettivamente, per esempio, l'ultima cosa fatta sulla scuola è una cosa fatta, sacrosanta, che andava fatta. Sì, certo, ma questo si cerca di fare. Il problema è che come si può fare le grandi riforme, la sferzata di cui il paese avrebbe bisogno in queste condizioni. Ecco, questo mi domando. Prima però voglio andare a sentire adesso le informazioni sul traffico. Rientriamo con la segreteria telefonica e poi attenzione perché ci sono due cose spassosissime dai giornali. Una è proprio della serie Lei non sa chi sono io. È beccata sul Corriere della Sera una ex deputata che si offende perché non viene chiamata appunto onorevole. Siamo a questi livelli in Italia. 24 mattino. Persino l'arrogantissimo Travaglio diventa simpatico rispetto alla patetica difesa d'ufficio di Berlusconi. Mi chiamo Lucio, sono orgoglioso di essere italiano, ma mi vergogno per chi ci sta governando e portando l'Italia alla rovina. Noi, poveri italiani, dipendiamo dalla Germania. Questo è il regalo che ci ha fatto il cavaliere Berlusconi. La galera non basterebbe, dovrebbero buttarle le chiavi una volta a Sanglera. Vorrei sfatare una volta per tutte la menzogna per la quale dicono che gli italiani non abbiano voglia di lavorare. Io mi offro, veramente sacrificato, come barbiere in Parlamento. Barbiere, pulizie, autista, usciere, cioè io mi sacrifico, voglio fare un lavoro per il Parlamento, per la mia nazione, alla metà dello stipendio corrente per coloro che fanno già questo mestiere. Guardate, voglio fare sto sacrificio, aiutatemi, grazie. Si parla di sentenza immediata come se Berlusconi fosse un condannato di guerra. È una vergogna trattare così un uomo che ha servito lo Stato e ha fatto onore all'Italia. E non si può dire che gli altri hanno governato meglio di lui. Emilia, buongiorno, sono Patrizia da Roma. Io non sono tanto arrabbiata, perché però vorrei chiedere una cosa a lei. Se cadesse veramente Berlusconi, finisse, Io vorrei sapere lei di che cosa parla, lei e di tutti gli altri giornalisti, di che cosa parlereste. Poi il Fatto Quotidiano penso che chiuderebbe, perché non saprebbe più di che cosa parlare. Spero che lei mi mandi in onda. Eccoci qua con la nostra segreteria telefonica. Guardi, signora, se cadesse Berlusconi troveremmo degli altri argomenti. Si fidi, voglio dire, l'Italia e il mondo è anche non solo Silvio Berlusconi. Siamo con Luca Dini e Paola Saluzzi. Luca, hai sentito questo che si offre barbiere alla Camera per la causa? Sì. anche a metà prezzo, a metà stipendio. Era bellissimo il tono. Paola Saluzzi, sei mai andata da una parrucchiera alla Camera? No, da una parrucchiera alla Camera, da una coiffeuse. No, vai a fare un'inchiesta. Racconto una bugia. Sono stata pettinata e truccata all'interno della barberia del Senato. E quelli sono non le hai chiesto un'intervista, sono due anni che li cerco io. Ma chiedili il cellulare, passamelo. No, ma semplicemente era vuota, cioè era un appoggio per un camerino Rai, diciamo, per il concerto di Natale del Senato. Quindi mi sono seduta sulle poltrone dei senatori. Ma mi è venuta la sensazione di dire barba e capelli, ma sulla barba per fortuna mi manca lo stesso. Per un attimo. Però, anche se mi invidio tanto voi uomini che vi fate la barba, vi mettono quelle cose calde sulla faccia. Per un attimo ho pensato, c'aveva il Pulitzer lì a due passi, no? Intervistare un barbiere della Camera del Senato invece. E niente, non è stato possibile. Allora stravince il garante calabrese per l'infanzia, Marilina Intrieri. Già c'è un garante per l'infanzia in Calabria, vabbè, ce n'è uno nazionale, ma lì ce n'è uno anche regionale, che è sdegnata, indignata, ha scritto alla prefettura di Crotone, siccome lei è stata parlamentare due anni, ha scritto alla prefettura di Crotone una lettera dicendo: mi avete inviato cortesemente una lettera, vogliate integrarla con il mio pertinente titolo istituzionale. Avete indicato solo che io sono dottoressa, ma non onorevole quale mi compete nella mia qualità di... E praticamente ha detto: se non me lo scrivete rifiuto la posta. Ma vi rendete conto, Luca Dini, ma vi rendete conto? Mi chiami onorevole o rifiuto la posta? Ma mi deve raggiungere un titolo, un po' sfigata, ecco, scusate la parola. Nel senso che credo sia l'unica persona in Italia che ambisce ad essere chiamata onorevole. Esatto, tutti che dicono: no, non dire che lavoro in Parlamento, perché sennò si arrabbiano. Paola Saluzzi, ma siamo allora, a sti livelli, lei l'ha considerato un'ingiustizia, un suggerimento. Sì. Andare a trovare, lo trovi ormai su internet, trovi tutto. Ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero, ognuno la tenè chi sta criando, ognuno la tenè chi sto pensiero. La livella di Totò, andare a sentire la livella di Totò, signora, lo faccia! No, anche lo perché faccia, tra l'altro, siccome non è stata chiamata onorevole, pare che abbia bloccato una visita dei bimbi, il garante per l'infanzia, per l'infanzia, ha bloccato una visita dei bimbi perché... insomma, perché i bimbi non dicono onorevole. La chiamano forse signora, signora non va bene, insomma siamo a questi livelli. Allora io ho il numero di Vanity Fair davanti a me e cosa c'è sul numero di Vanity Fair? Guarda che sono io che sorrido, io nuda e felice. Scarlett Johansson, e se lo dice lei, se è felice lei, Luca, anche noi, insomma, voglio dire. Siamo noi per contraddirla. No, voglio dire, se è nuda e felice lei, è nuda lei e felice anche noi, che dobbiamo farci. Allora, io però segnalo questo, cioè leggerò con molta attenzione il viaggio in Egitto, mi sembra, no? Che avete fatto, sì. Che è rimasto di Piazza Tahrir, che è un tema anche molto attuale vista la situazione internazionale. Ecco, chi è rimasta di quella? Perché c'è stato un colpo di Stato e poi, come al solito, che raccontate in questo reportage? Ma raccontiamo la confusione. Lo abbiamo voluto fare anche perché nel momento in cui tutti parlano della Siria, giustamente, andiamo a vedere un posto dove uno dei tanti posti dove è molto difficile distinguere i buoni dai cattivi, e credo io personalmente che sia un po' lo stesso problema che ci troviamo ad affrontare in Siria, ovvero i buoni sono le vittime, i civili, ma tra le due fazioni armate non è facile distinguere, no, diciamo, come ha detto, è facile dire chi è peggio, come certo. direbbe l'onorevole che la Boldrini ha rimproverato, esatto. Come ha detto anche Domenico Quirico, che ha detto è davvero un paese nel quale non si capisce, l'inviato della stampa che è tornato. Vi devo salutare, grazie a Luca Dini con Vanity Fair, Paola Saluzzi, Sky TG24 pomeriggio, oggi alle 15 parlerete di Berlusconi, ovviamente. Parleremo anche di Berlusconi. Ma certo, ma anch'io alle 8.30. Guarda che poi ne diciamo, ma parliamo sempre di quello. Ci seguiamo con Emma Bonino, tra poco. Ah sì, alle 8.15 avremo Emma Bonino, ministro degli esteri, ora al giornale radio. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7.19 minuti, allora pronti a leggere i giornali con voi, cari ascoltatori. Vi ricordo che avremo ospite tra un'ora circa, alle 8.15, la ministra degli esteri, Emma Bonino. Nella notte ha parlato Barack Obama, presidente americano, la Siria ovviamente in primo piano, e anche l'11 settembre oggi, non dimentichiamolo. E insomma, con Emma Bonino ovviamente l'attualità internazionale, soprattutto sulla Siria, sarà il centro delle nostre, della nostra intervista. E poi parleremo della situazione politica, lo stallo, la puntata numero 5.932 dell'affair Berlusconi, decadenza sì o no, pare ci sia uno stallo, tutto rinviato, una settimana di tempo, i giornali sono pieni dei soliti retroscena. Vabbè, avremo con noi Alessandro Sallusti, direttore del giornale, e Massimo Fini, editorialista del Fatto Quotidiano, questo alle 8.30. E Ale, andiamo avanti e andiamo a leggere i giornali. E come detto, mercoledì 11 settembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sullo spread, il sorpasso di Madrid, Visco, segnali di recupero ma preoccupa l'instabilità politica, così il governatore di Banca Italia. La questione politica, Corriere della Sera, rinvio su Berlusconi per evitare la crisi. Il Fatto Quotidiano, Napolitano monita e il PD s'ammoscia. Libero, la fretta antisilvio nasconde la stangata. Il PIL cala più del previsto, tra pochi giorni potrebbe essere varata una manovra correttiva. Questo è il titolo di Libero. Il Messaggero, Berlusconi, la tregua del Colle. La Stampa, Berlusconi, voto rinviato. Il Giornale, adesso il PD ha paura, la battaglia sulla decadenza per il secolo XIX, invece tregua nella giunta, rinvio su Berlusconi. L'Unità, il valzer degli azzeccagarbugli. Come vedete, i titoli sono quasi tutti sulla seduta della giunta di ieri, anche il Manifesto, la notte dei preliminari, e c'è la foto del Quirinale in primo piano. Perché? Perché Napolitano è l'uomo che, secondo tutti, ha ieri fatto una serie di telefonate e che ha giostrato questa crisi. Repubblica invece l'ho tenuta per ultimo come citazione di prima pagina, perché c'è un fatto a suo modo epocale, a suo modo straordinario, tra poco lo vedremo. Il titolo è sul Papa, perché il Papa, pensate, Papa Francesco, ha preso carta e penna e ha scritto una lettera di 5 pagine, pubblicata dalla prima pagina fino a pagina 5, rispondendo a Eugenio Scalfari, un dialogo sulla fede o sul rapporto tra Dio e le persone che non hanno fede. Erano due articoli di Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, che di recente si interrogava su questo tema, e oggi il Papa, che tra l'altro in maniera straordinaria si firma solamente così, Francesco, scrive questa lettera e dunque il titolo di prima pagina di Repubblica è «Il Papa, la mia lettera a chi non crede, la verità non è mai assoluta», firmata Francesco. Tra poco la vedremo. Prima però voglio partire da una segnalazione che è la classica segnalazione che ci fa tenere le mani strettissime sul volante se siete alla guida. E se siete a fare colazione, mi raccomando, placatevi un attimo, fermatemi così, così, immobili, come statue di cera. Fermi, immobili, perché rischiate di fare danni. Leggete pagina 24 del Corriere della Sera, l'articolo di Antonio Ricchio. «Mi chiami onorevole» e il garante rifiuta la posta. È la storia di un ex parlamentare, Marilina Intrieri. Attenzione, ex parlamentare, legislatura 2006-2008, quella Prodi durata 2 anni. L'ex parlamentare, che oggi è garante dell'infanzia per la regione Calabria, litiga via lettera con la prefettura. Motivo? Lei non sa chi sono io, scrive il Corriere. Offesa per la mancata attribuzione del titolo di onorevole, Marilina Intrieri, ex deputato dell'Ulivo, garante per l'infanzia in Calabria, ha rispedito al mittente, cioè la prefettura di Crotone, i documenti che il funzionario l'aveva inviato per autorizzarla a visitare il centro accoglienza richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto. Si è presa la briga di mettere nero su bianco il suo disappunto. E perché? Perché il pass che gli è arrivato si limitava a definirla dottoressa, quali fosse un insulto. E allora lei ha preso carta e penna, ha scritto alla prefettura di Crotone: «Mi avete inviato una lettera, ma vogliate cortesemente integrarla col pertinente titolo istituzionale. Ho constatato, infatti, che mi viene attribuito il titolo accademico e non anche quello di onorevole che mi compete nella qualità di deputato della 15ª legislatura. Mi sorprende che l'inesattezza rilevata provenga dal massimo ufficio dello Stato sul territorio. Attendo quindi le note corrette». E questo è il titolo, il senso della lettera. E tra l'altro ha sospeso per questo, ha sospeso la visita che doveva fare ai bambini, che dovrebbe garantire come garante dell'infanzia in Calabria, in attesa che riceva il titolo appropriato di onorevole. Ecco, siamo a questi livelli. Tra l'altro raggiunta dal Corriere dice: «Confermo tutto e aggiungo che un'articolazione dello Stato deve rispettare quanto impone il protocollo. Il titolo onorevole rimane anche quando non si riveste più l'incarico di parlamentare. Però sono stupita perché questa lettera doveva rimanere riservata. Anzi, per questo motivo chiederò che venga aperta un'indagine». Sì, pure l'indagine. Signora onorevole dottoressa Marilina Intrieri, garante dell'infanzia in Calabria, verrebbe a dire: «Ma mi faccia il piacere!» Ecco, insomma, si arrabbia perché non è stata definita onorevole. Lei non sa chi sono io. Ecco, mettete a fianco questa storia di un'Italia che sembra appartenere al 1622, anche se non c'era l'Italia, ma diciamo, e mettete a fianco la semplicità con cui un papa, che non è proprio il primo che passa per la strada, si firma Francesco in una lettera inviata oggi a Repubblica, e capirete un attimo le differenze che possono fare le persone con dei banali gesti. E questo mi permette appunto di arrivare a questa lunga, intensa lettera che non posso riassumere, leggere, perché è una dotta lettera, anche discussione sulla fede con Eugenio Scalfari, che scrive in prima pagina di Repubblica: «Papa Francesco ha deciso di rispondere alle domande che gli avevo indirizzato in 2 articoli. Non mi aspettavo, francamente, lo facesse così diffusamente. Forse perché la pecora smarrita merita maggiore attenzione e cura? Il tema centrale», scrive Scalfari e si legge su Repubblica, «è, come poneva lui stesso, il rapporto tra Dio e i non credenti. Se obbedite alla coscienza avrete il perdono di Dio». Questo è il titolo della lettera. E il gesto davvero più straordinario, oltre all'intensità della lettera, è davvero nella firma. Francesco, senza niente, senza papa, senza Francesco. Questo è il titolo, è così come che si firma il Papa. Racconta a un certo punto e scrive il Papa a Eugenio Scalfari, venendo alle domande che lei mi ha posto, Ciò che le sta a cuore intanto è capire l'atteggiamento della Chiesa verso chi non condivide la fede in Gesù. Innanzitutto mi chiede se il Dio dei cristiani perdona chi non crede e non cerca la fede. Premesso che, ed è la cosa fondamentale, la misericordia di Dio non ha limiti se ci si rivolge a Lui con cuore sincero e contrito, la questione per chi non crede in Dio sta nell'obbedire alla propria coscienza, scrive il Papa. Il peccato, anche per chi non ha la fede, c'è quando si va contro la coscienza. Ascoltare e obbedire ad essa significa, infatti, decidere di fronte a ciò che viene percepito come bene o come male. E su questa decisione si gioca la bontà o la malvagità del nostro agire. Dio, scrive il Papa, non è un'idea frutto del pensiero dell'uomo. Anche quando venisse a finire la sua vita sulla terra, l'uomo non terminerà di esistere. Poi si rivolge agli ebrei, che chiama fratelli ebrei, che hanno conservato la loro fede in Dio, e di questo non saremo loro mai sufficientemente grati come Chiesa, ma anche come umanità. Così il Papa, o meglio, così Francesco, che scrive questa lettera, è pubblicata da Repubblica, il Papa, la mia lettera a chi non crede. Quanto non lo farà mai, non lo farà mai, ma quanto sarebbe bello se il Papa Francesco chiamasse l'onorevole signora dottoressa Marilina Intrieri Garante Calabrese per l'infanzia. 30 secondi di chiamata, così. Quanto darei per poter essere una mosca per ascoltare quella chiamata? Vabbè, ma non succederà. Ora riprendete pure le tazzine del caffè, siete congelati da 5 minuti, come il vostro caffè, lo bevete un po' tiepido, e riprendete a guidare, staccate pure le mani dal volante se siete al semaforo. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui, dobbiamo cambiare la sigla, il dottor Alessandro Milan. Che mica scherziamo, perché i titoli contano, come pensa l'onorevole dottoressa Garante per l'infanzia della regione Calabria. Allora, la politica è tutta appesa con le solite 10-15 pagine, più o meno, 10-12 pagine. I quotidiani dedicano questa, almeno i quotidiani, quelli più corposi, quelli generalisti, sulla vicenda Berlusconi, decadenza sì o no, che si lega ovviamente alla tenuta del governo sì o no. Puntata numero 5983, non definitiva, come nelle migliori telenovelas, si slitta di almeno 48 ore, nel senso che ieri la Giunta, che si è riunita per la decadenza, per decidere sulla decadenza al Senato, ha deciso di rinviare di 48 ore chi pensava già a una notte di passione per il governo. Per il momento siamo salvi politicamente parlando come paese Italia. Berlusconi slitta il voto in giunta, così titola pagina 5 del Sole 24 Ore, con Barbara Fiammeri che racconta un po' tutta la giornata. L'appuntamento serale alle 20 ha favorito il lavoro dei pontieri cominciato fin dal mattino, e così quando i 23 commissari della giunta per le elezioni hanno fatto il loro ingresso nella sede della commissione, il barometro della crisi segnala già un lieve miglioramento, tanto che da Palazzo Chigi si parlava di un Letta fiducioso, convinto, dopo aver incontrato Alfano e Epifani, che si può andare avanti. Aggiungo io, non si sa per quanto, almeno anche a leggere i giornali, però per il momento si può andare avanti. E qui sono l'elenco di tutti i retroscena che trovate sui giornali. Allora, i retroscenisti si esercitano nel cercare di capire quale sia l'umore e le intenzioni di Silvio Berlusconi, che è blindato ad Arcore. Il Foglio scrive che Berlusconi ha già registrato un nuovo videomessaggio, quello per la nascita di Forza Italia o la rinascita di Forza Italia, un messaggio nel quale ci sono forti attacchi alla magistratura, magistratura che ha una totale irresponsabilità e gode di una totale impunità. Questo è il senso, per esempio, di uno dei passaggi, secondo il Foglio, del videomessaggio lanciato da Silvio Berlusconi. Berlusconi che ha annullato anche la convocazione di tutti i parlamentari prevista per oggi, e quindi questo potrebbe essere un segnale che la crisi al momento rientra. Ed eccoli qui i retroscenisti. Ugo Magri sulla Stampa racconta dall'ultimatum alla tregua il cavaliere senza bussola ai fedelissimi, racconta in questo retroscena pagina 3, ai fedelissimi a un certo punto ha detto: fate quello che volete, io vi seguirò, basta, non ne posso più. Secondo invece il giornale, ad Alberto Signore, retroscena, pagina 3, non mi volete più bene? Così come un po' gli bambini spauriti o gli anziani un po' preoccupati, Silvio Berlusconi si è rivolto ai ministri raccolti con lui. Non mi volete più bene? Berlusconi congela la crisi ma vuole un segnale vero, e questa cosa sul giornale è molto sottolineata. Mi volete ancora bene? Berlusconi si rivolge così ai suoi ministri. Oppure altro retroscena che trovate su Repubblica, Carmelo Lo Papa, pagina 7, Berlusconi ora medita l'addio alla politica, posso anche dimettermi io ma il Colle dia garanzie. Addirittura Verdini a nome dei Falchi ha trasmesso ad Arcore un report sui vantaggi di una spaccatura delle elezioni anticipate, ma è un Berlusconi che dice: posso anche dimettermi ma voglio garanzie dal Colle. Volete altri retroscena? Possiamo andare avanti, ognuno al suo. Per esempio Francesco Verderami sul Corriere della Sera racconta il triangolo che vuole evitare la caduta. Gianni Letta mantiene i contatti con il Quirinale e con il Premier, quindi Napolitano, Gianni Letta, Berlusconi, col Cavaliere che dice: il PD mi odia. Il Parlamento è definito come il Carso, racconta Verderami, e cioè dove c'è in corso una logorante guerra di trincea con finale che pare già scritto, perché è vero che ieri al Senato il PDL è riuscito a rinviare il voto sulla decadenza del Cavaliere, che il PD ha accettato di mutare il timing per non dare l'idea di un accanimento verso l'alleato, ma non è affatto detto che l'ex Premier riesca nell'intento di arrivare il giorno in cui scatterà l'esecuzione della pena ancora da parlamentare. Insomma, Francesco Verderami scrive che è solo una questione di rinvio e di rinvio o rinvio. Pare che Enrico Letta abbia già presentato e preparato un discorso in caso di caduta politica da presentare al Parlamento, e rivolgendosi a quelli del Popolo della Libertà con il senso delle parole: a questo punto o giurate fedeltà al vostro cavaliere o al paese, cioè mettere di fronte anche in caso di crisi di governo il Popolo della Libertà a questa alternativa. Napolitano si è mosso molto, stando ad altri retroscena del Fatto Quotidiano, di Libero, un po' di tutti i giornali. Per il Fatto Quotidiano, che titola in prima pagina addirittura Napolitano monita e il PD si ammoscia, Napolitano chiede l'unità e il PD si adegua e salva Berlusconi. Fabrizio D'Esposito a pagina 3 del Fatto Quotidiano, Napolitano ha fatto le sue chiamate, anche per Libero ha sentito ieri Enrico Letta, ha sentito Epifani, ha sentito il capogruppo al Senato del PD Zanda, e a un certo punto il PD appunto ha rinunciato a questa accelerata, tanto che secondo il Fatto Quotidiano Berlusconi ha gioito ieri così ad Arcore: il PD si è genuflesso, se la sono fatta sotto. Tutte frasi che dovete prendere col beneficio del dubbio, sono retroscena, magari sono anche frasi buttate lì per alimentare il chiacchiericcio, il teatrino della politica, di una cosa che politicamente è seria, visto che qui si decide la tenuta o meno del governo. Sta di fatto che siamo già ai calcoli. I calcoli di che cosa? Beh, degli eventuali senatori che in caso di caduta del governo potrebbero staccarsi da PDL e Movimento 5 Stelle per fare la stampella e fare una sorta di Letta bis. Il Corriere ha già un modo per definirli, come in guerra, i riservisti. 16 dal PDL e 8 dal Movimento 5 Stelle, i riservisti pronti al bis. Pagina 8 del Corriere, Tommaso Labate, in caso di caduta. E chi sarebbero questi del PDL? Beh, hanno assicurato a Berlusconi, certamente la valanga siciliana, cioè la pattuglia con Salvatore Torrisi, Bruno Mancuso, Marcello Gualdani, Pippo Pagano, Giuseppe Ruvolo, Francesco Scoma. E sapete tra di loro qual è la spiegazione che è stata data a Berlusconi del perché tutti i siciliani appoggerebbero l'eventuale Letta bis? Beh, c'è chi tra di loro si è dimesso dall'assemblea regionale qualche mese fa per tentare la fortuna al Senato ed è stato un colpo di fortuna che non ricapiterà mai più. Tradotto, col cavolo che mollo la poltrona al Senato e mi ritrovo senza stipendio, senza tutto. E quindi i siciliani del PDL sarebbero pronti per questi motivi, secondo il Corriere della Sera, ad appoggiare Letta. E poi ci sono quelli del gruppo GAL e poi ci sono quelli del Movimento 5 Stelle e qui subito partono le ricerche. Sono 23 i riservisti per il Corriere. Per il Messaggero, Mario Aiello in prima pagina, sono 24 per il Corriere, 23 per il Messaggero. Io ho detto sul mio profilo Twitter a Lino Milan, datemi un terzo numero e ce lo giochiamo, facciamo un bel terno magari sulla ruota che decidete voi. 23, 24 riservisti, insomma è già così, non si capisce nulla di quello che succederà tra mezz'ora in questa telenovela infinita, ma già si contano i possibili riservisti. Segnatevi questo nome che Dio ce ne scampi, ma potrebbe da questo momento indicare quelli che potrebbero appoggiare un Letta bis. Per esempio il senatore del Movimento 5 Stelle Lorenzo Battista esce un po' allo scoperto e dovrà forse passare anche una qualche mezz'ora di garrota e ghigliottina adesso nel suo movimento. Sentite cosa dice alla Stampa, intervistato da Andrea Malaguti: un governo col PD a certe condizioni. Un governo bis? Difficile, risponde Battista. Un governo amato? No. Allora nessun accordo col PD? Dipende. L'apertura. Dipende. Se ci fossero un presidente del Consiglio terzo e un accordo su punti condivisi, si potrebbe chiedere alla rete che ne pensa. Abbiamo preso 8,5 milioni di voti, non credo possiamo limitarci alla politica del no. Casaleggio inorridirebbe. E sentite cosa risponde il senatore del Movimento 5 Stelle Battista. Casaleggio? Ma non è lui che è andato a Cernobbio? La prossima volta mi aspetto di vederlo al Bilderberg. Le piace di meno Grillo o Casaleggio? Domanda curiosa, sto al gioco. Casaleggio, oggi è lui a decidere. I voti li ha presi Grillo, ma nella mia testa il movimento era una cosa diversa. Forse avevo capito male io. Siete solo portavoce, gli chiede la Stampa. Cito un collega, è una cazzata. Poco elegante, forse, ma portavoce di chi? Del blog o degli elettori? Non credo si possa restare nel palazzo senza fare proposte. Dobbiamo dare il nostro contributo pensando al paese. Se ci diranno di no, ne prenderemo atto. Insomma, il senatore Battista dovrà scontare, credo, dopo questa intervista, qualche problemuccio all'interno del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che, tra l'altro, ieri ha protestato in Parlamento. C'è anche questa straordinaria gaffe fatta dal presidente della Camera Laura Boldrini, da cui ripartiamo tra un attimo dopo il traffico, quando uno del Movimento 5 Stelle, il senatore Di Battista, deputato onorevole, ha preso la parola e ha detto: il PD è peggio del PDL. E la Boldrini: non insulti, ma che insulto è? Come se PDL fosse un insulto, così a logica. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, voglio rispondere anche a un ascoltatore via SMS, mi scrive al 349-238-6666, così, molto brutale. Ma non hai il vomito, caro Milan, a leggere tutte queste cose? Vabbè, andiamo avanti. Alberto, poi mi scriva una mail che le rispondo. No, che devo dire? Questi sono la politica italiana, insomma, da un bel po' di anni si è trasformata un po' in un teatrino. In questo momento la situazione è questa. Come dicevo, ieri l'onorevole Di Battista ha detto a un certo punto: il PD è peggio del PDL, e Laura Boldrini, presidente della Camera, non offenda, tanto che oggi Gramellini, Massimo Gramellini, in prima pagina il suo buongiorno sulla Stampa: il PD è peggio del PDL, afferma Di Battista, e la presidente Boldrini: non offenda, tre volte, non offenda, per sottolineare la gravità inaudita del paragone. E dopo aver consultato l'ufficio arrampicata sugli specchi, scrive Gramellini, siamo pronti a credere alla teoria dell'equivoco, l'imperativo che Boldrini ha intimato con la consueta voce marmorea dai riflessi color ghiacciolo era rivolto al tono del Di Battista. testa più che al contenuto, altrimenti dovremmo pensare che il nome di uno dei partiti rappresentati alla Camera da lei presieduta sia da considerarsi un insulto. PDL a me, badi come parli, PDL sarà sua sorella. Sai che proprio è una bella faccia da PDL? Oppure uno spauracchio da utilizzare coi bambini più impressionabili? Se non mangi la verdura da adulto diventerai un capogruppo del PDL. Se non smetti di piangere chiamo una PDL con la faccia di plastica e la scopa di pitone. Ecco, naturalmente, scrive Gramellini, ciascuno può pensare e avere sul PDL l'opinione che crede. Berlusconi, per dire, ne ha una talmente pessima che ha deciso di rottamarlo. Ma rimane il fatto che alcuni milioni di italiani lo hanno votato. Questo accidente, piuttosto frequente in democrazia, non giustifica un trattamento preferenziale per qualche leader di quel partito, ma dovrebbe indurre i rappresentanti delle istituzioni a una forma elementare di rispetto. Dire che il PD è peggio del PDL non è un insulto, anche se dal punto di vista politico non è nemmeno un complimento. Vabbè, archiviata anche questa vicenda, la verità è che il governatore di Banca Italia, Visco, ha ribadito ieri che questa incertezza politica frena la ripresa. D'altronde è abbastanza ovvio come si può fare qualcosa quando qualcuno a fianco ti dice guarda che tra un giorno muori, guarda che tra un giorno non sei più lì. Insomma, psicologicamente è anche un po' difficile. In ogni caso, la stretta sui conti è servita a evitare il peggio, il declino della produzione verso la fine, quindi vede spiragli il governatore di Banca Italia, e questo lo trovate tutto nell'articolo di Rossella Bocciarelli a pagina 4 del Sole 24 Ore. C'è anche, per quel che riguarda le cose ben più concrete che impattano noi italiani, una pagina interessante sul Corriere della Sera, Antonella Baccaro, a pagina 13, sulle tasse comunali che arrivano. Ecco la mappa dei rincari sull'addizionale IRPEF, lo 0,80% sul reddito lordo. Tutto come previsto, stangata delle addizionali che sta per abbattersi sui contribuenti chiamati in soccorso per riempire le casse vuote dei municipi. Sono circa 2.000 i comuni che hanno già deciso di aggiungere un tributo locale alla tassazione nazionale del reddito delle persone fisiche, l'IRPEF. Precisamente sono 1.989 comuni, su 8.096 comuni in Italia, che hanno già deciso questo. Circa un quarto di questi hanno deciso di aumentare le aliquote dell'addizionale adottate l'anno scorso. Quella massima, pari allo 0,8%, è stata scelta da 267 municipi. Secca, senza nemmeno aggiungerci un'esenzione per le fasce di reddito più basse. Altri 164 comuni hanno imboccato la strada di adottare l'aliquota dello 0,8 come ordinaria, salvo ricorrere a esenzioni. Comunque, tutta la mappa sul Corriere di quella che è la situazione davvero difficile. Ci sono anche tante altre notizie del Papa, che non solo scrive a Repubblica firmandosi Francesco, ma ieri ha detto questa frase che è il titolo di molti giornali: i conventi chiusi usiamoli per i rifugiati. Spesso viene utilizzata questa frase, che è un po' becera, a dire il Vaticano è per i diritti dei rifugiati, come se fosse un insulto e non un dovere, se li prendano loro. E il Papa ha proprio detto questo, è andato a incontrare dei conventi di gesuiti e ha detto: basta i monasteri vuoti e magari usati come hotel, utilizziamoli per ospitare i rifugiati. Quindi dando proprio anche concretezza a quello che è una vulgata, se li prendano in Vaticano. Questo ha detto l'appello del Papa, aprire ai rifugiati i conventi vuoti. Straordinario davvero. Siamo alla chiusura. E dovrò contenermi, perché il premio La Carta Costa oggi va al Corriere della Sera con Anna Meldolesi a pagina 29, e non è la prima volta, ma su una notizia dal titolo Chiedimi se sono felice. Incredibilmente, cari ascoltatori, l'ONU ha fatto il World Happiness Report, e cioè la classifica dei paesi dove si è più felici. L'Italia è al 45esimo posto, ha perso 17 posizioni, prima è la Danimarca, la Norvegia, la Svizzera. Perfino il Corriere si chiede: l'assunto che persone appartenenti a culture diverse rispondano in modo omogeneo a domande sulla felicità è discutibile. Lo studio ha dei limiti, certo, ha dei limiti. Davvero è meglio vivere in Costa Rica, che è al 12esimo posto, o in Messico, che è 16esimo, che negli Stati Uniti, che è 17esimo? Non lo so, ma andate a chiederlo magari a un miliardario di Houston nel Texas, ti dirà che è felicissimo. Andate a chiederlo a uno sfigato che vive sotto i ponti di New York, magari ti dirà che l'America è un posto di merda. Eppure l'ONU ha fatto una classifica, e c'è la classifica, il World Happiness Report. Noi siamo 45esimi. Ah, vivono molto meglio di noi negli Emirati Arabi Uniti, questo secondo il World Happiness Report. Vivono molto meglio di noi in Islanda, anche se magari fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Anche in Islanda ci sarà qualcuno che non ce la fa a mettere la colazione, la cena e il pranzo insieme, eppure c'è il World Happiness Report. Siamo tutti felici, soprattutto ricordando, cari amici del Corriere, che avete dedicato più di mezza pagina a questa notizia, che la carta costa. Ricordatevelo. Giornale Radio, rientriamo con Emma Bonino, ministro degli Esteri, alle 8:15. 24 mattino. Eccoci in diretta alle 8:16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, nella notte ha parlato alla nazione il presidente americano Obama. Ha detto che bisogna reagire contro Assad, dunque contro la Siria, ma ha lasciato aperto spiragli anche di diplomazia sulla proposta russa di smantellare l'esercito di armi proibite di Damasco. Insomma, sono elementi che vogliamo approfondire con il ministro degli Esteri Emma Bonino, che ringrazio e saluto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Possiamo dire, alla luce delle dichiarazioni di Obama, secondo lei, che l'ipotesi di un attacco militare per il momento si allontana? Beh, possiamo dire che si è recuperato uno spazio per tornare a dar voce alla politica, cosa che ritengo, e alla diplomazia, cosa che ritengo positiva, e che su cui bisognerà evidentemente guardare anche ai dettagli e lavorare molto, perché penso che l'obiettivo di impedire ad Assad di usare mai, ad altri, a tutti quanti, di usare mai più le armi chimiche è un obiettivo sacrosanto, ed è un obiettivo che probabilmente si può tentare di riuscire ad ottenere senza l'uso, diciamo, di attacchi militari o di punizioni militari. Credo che l'applicazione della Convenzione contro le armi chimiche, la sua distruzione, convenzione che la Siria non ha mai firmato, come l'Egitto per esempio o come alcuni altri paesi, sia la strada da tentare nel modo assoluto. Poi c'è la questione delle responsabilità, chi è stato, e delle responsabilità dell'attacco chimico del 21 agosto. E certo, ma sono due cose, diciamo, che possono andare in parallelo, e sulla responsabilità certamente il rapporto degli ispettori può insomma mettere nuova luce su questa parte e su questo dossier. Senta, ministro, cosa dovrebbe fare secondo lei adesso Assad in concreto per implementare questa via diplomatica? Cioè, dovrebbe mettere, visto che non ha firmato la convenzione che ha detto, intanto la deve firmare, questo è. E poi la stessa convenzione stabilisce i passaggi che devono essere compiuti, e quindi la consegna della lista dei siti e dei laboratori, l'accesso illimitato degli ispettori e dei tecnici che possono intervenire per distruggere queste armi chimiche. Sì. Chiarisco che le armi chimiche non è che sono spostabili e quindi si possono portare via e distruggere altrove. Le armi chimiche vanno distrutte in loco. Esiste una commissione, l'OPAC, prevista da questa convenzione. Insomma, le modalità sono già stabilite nella convenzione stessa. Però se si dimostrasse poi parallelamente che il 21 agosto davvero è stato l'esercito di Assad a compiere questo attacco, questo non giustificherebbe l'intervento militare invocato da Obama? Si può per esempio deferire Assad alla Corte Penale Internazionale, e che quindi la punizione avvenga in un'altra sede. Per questo però ci vuole l'accordo del Consiglio di Sicurezza. quindi prima dell'attacco, lei dice, prima di arrivare all'attacco, insomma è davvero l'ultima opzione, ma non... L'azione militare è sempre l'ultima opzione, così deve essere. Questo certamente. Lei sa che è stata anche accusata in questi periodi di essere un po' anti-americana in questa posizione? Insomma, tutto è abbastanza risibile, francamente, non solo per storia, ma per posizione. E credo che semplicemente, come ha detto il Presidente Letta, come dire, avere opinioni diverse sul tipo di reazione a episodi che noi condanniamo con la stessa fermezza e con la stessa determinazione non ha nulla a che vedere con, che ne so, anti-americanismi che... Credo di aver dimostrato in tutta la vita, in tutta la mia attività, come io ritenga che l'alleanza con gli Stati Uniti sia un'alleanza strategica. Dissentire sul tipo di reazione, perché noi riteniamo che non vada svilito il ruolo, un sistema multilaterale, quello delle Nazioni Unite, non mi pare possa davvero neanche far pensare a un dato di anti-americanismo che non... veramente non mi riguarda. Anche se Obama questa notte ha detto un eventuale attacco non sarebbe certamente mai un attacco come quello in Iraq o in Afghanistan di lungo respiro, ma un attacco, diciamo, neanche a puntura di spillo, ma un attacco mirato. Ecco, secondo lei è possibile questo attacco mordi e fuggi, oppure si rischiano poi di innestare delle conseguenze incontrollate? Io non credo che sia possibile, lo ripeto, al di là di una delibera del Consiglio di sicurezza, questa è la linea che abbiamo sempre tenuto ed è la linea, mi pare, che dobbiamo assolutamente confermare. Sugli attacchi mirati, e gli attacchi sono sempre uno diverso dall'altro, perché uno è diverso dall'altro sono le condizioni, evidentemente. Ministro Bonino, le chiedo questo: l'Italia ovviamente è molto soddisfatta che dopo 152 giorni si sia riportata a casa Domenico Quirico. Glielo chiedo proprio brutalmente e non so lei come e se mi potrà rispondere. È stato pagato la un prego, riscatto? Cioè, la domanda è cioè, veramente già la una coazione a ripetere, insomma. A me non risulta che sia stato pagato nessun riscatto. Come sa, Quirico è stato anche sentito dal magistrato. Penso anche che insomma dietrologie non aiutano mai, basterebbe già guardare quello che abbiamo di fronte agli occhi. Ci sono notizie di un altro italiano, il padre gesuita, padre Dall'Oglio, che è stato rapito, cioè avete qualcosa che si può dire anche su di lui? E le chiedo anche, c'è un cooperante italiano di cui non parla nessuno da 19 mesi rapito in Pakistan, si tratta di Giovanni Lo Porto. No, non abbiamo su Dall'Oglio, come ho già detto, i canali che abbiamo sono fragilissimi, sono peraltro spesso contraddittori e quindi continua il lavoro paziente come è stato quello per Quirico, dove la riservatezza è come dire l'elogio del silenzio poi ha pagato. Lo stesso vale per l'altro cooperante, per altri casi, non solo italiani, che stiamo seguendo. Ultima... Penso sia comprensibile. Sì, non... certo, questo sicuramente. L'importante è mantenere, diciamo, una speranza di legame, ecco, che queste persone siano assolutamente seguite. L'unità come di crisi della Farnesina credo abbia dimostrato, non solo nel caso Quirico, una capacità di tenuta e di attenzione insieme con tutta la casa, che credo sia stato e venga riconosciuto. Tra l'altro Quirico ha detto ormai la Siria è diventato il paese del male, cioè non si capisce più questa rivoluzione se sia stata tradita o no e chi siano questi ribelli, questo che identificano. Beh, come ho detto anche in Parlamento, certamente fortissimamente infiltrata da gruppi al-Qaedisti, da gruppi jihadisti e anche da gruppi di criminalità come dire, tra virgolette normale, come spesso avviene nelle guerre civili, chi traffica in armi, in qualunque elemento di mercato nero, chi usa i sequestri anche a fini di posizionamento politico, insomma certamente la situazione non è una situazione del regime contro virgolette i buoni, la stessa opposizione molto, molto composita, molto complessa e, come ripeto, fortissimamente infiltrata. E l'ultima volta che ci siamo sentiti le avevo chiesto anche dei Marò qualche mese fa, si era fatto questa timeline possibile su un possibile ritorno entro Natale. So che Staffan De Mistura segue passo passo la vicenda dei due Marò in India, ci può dare qualche aggiornamento sulle... Siamo alla fine della nuova inchiesta. Il presidente Letta ha visto Mohammed Singh, il primo ministro a lato del G20, abbiamo confermate le stesse reciproche impostazioni di chiudere la vicenda in modo il più veloce possibile e in modo adeguato, quindi come vede a livello politico i contatti sono a più alto livello. Io penso che con cocciutaggine e con tenacia risolveremo anche questo problema. E entro quest'anno non si può dire, non ci si può sbilanciare su una data? Ma è inutile dare, date a caso o numeri a caso. Quello che è importante sapere è che i Marò e le loro famiglie sanno perfettamente, perché i contatti sono frequenti e puntuali. Io vedrò tra pochi giorni le mogli dei due Marò, ed è che la nostra attenzione, la nostra pressione per risolvere anche questo problema così complicato e così contorto non è mai venuta a meno. Speriamo di riuscire proprio con questo metodo a sbrogliare anche questa matassa. Senta, nel ringraziarla non ci siamo dimenticati. Grazie. Che oggi è l'11 settembre, però le devo chiedere, certo, questo. Lei dov'era l'11 settembre 2001? Ero esattamente di ritorno dal Cairo, nella sede del Partito Radicale. Abbiamo saputo qui a Roma quella notizia, stavo con Sergio Stanzani, ed è stato veramente un colpo al cuore, passando dall'incredulità all'orrore. E quel messaggio, il messaggio di quell'11 settembre, secondo lei oggi quanto è ancora valido e cosa vale? Ha condizionato sicuramente tutti questi anni della storia di tutti noi e del mondo intero, e continuerà a condizionarla. Questo certamente. Intanto la ringrazio. Grazie. Buona giornata. Buona giornata a Emma Bonino, che è ministro degli esteri, per essere stata con noi. Che dire, tra 5 minuti, se volete anche con il contributo delle vostre telefonate, ci rituffiamo sulle cose italiane. Io poi ironicamente la definisco la telenovela, puntata numero 5932, della vicenda Berlusconi, decadenza sì, decadenza no. La sensazione è che a tantissimi italiani questa cosa non interessi nella vicenda in sé, cioè ci scrivono, ci scrivete, ce lo dite, basta, non ne possiamo più, parliamo delle cose concrete. E lo so, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, il problema è che cosa c'è di più concreto, se dal punto di vista politico, di sapere se un governo rimarrà ancora in carica? Direi che questo è un qualcosa che invece impatta nelle vite di tutti noi, visto che il governo dovrebbe fare le cose che poi dobbiamo toccare con mano, sia in positivo e sia in negativo nelle nostre vite quotidiane. Allora vogliamo parlare con Alessandro Sallusti, direttore del giornale, e Massimo Fini, editorialista del Fatto Quotidiano, non di questa manfrina, non delle sensazioni di quello che sta vivendo Silvio Berlusconi, decade o non decade, ma insomma, anche impostiamola così, è possibile che un paese debba rimanere appeso a una vicenda politica seppure importante, e tutta l'Italia dipendere da questa vicenda dal punto di vista politico? Ne parliamo tra pochissimo. 800 24 00 24 per essere con noi. 24 mattino. Eccoci qui, sono le 8:33. Io, come ho detto prima, sono quasi certo che moltissimi degli italiani che ci staranno ascoltando adesso starete andando al lavoro, a fare le vostre faccende, vi spostate in macchina, siete presi dai vostri pensieri quotidiani. Moltissimi di voi questa vicenda della decadenza di Berlusconi, decade, non decade, Berlusconi, sì, no, la stiate vivendo con un senso anche di noia, di fastidio, ma nel senso proprio di dire basta, non se ne può più, come ha scritto qualche giorno fa Filippo Facci su Libero. La sensazione è proprio quella. Finite, decidete, e poi quando avete finito chiamateci e fateci sapere che è successo. Non lo so se la vive con la stessa sensazione Massimo Fini, che saluto, è scrittore, editorialista del Fatto Quotidiano. Buongiorno Massimo, ben ritrovato, eccoci. Buongiorno qua. Buongiorno a voi. La vive così Massimo Fini? No, o no. È più, no, invece è più una cosa... No, è semplicemente la questione della decadenza di Berlusconi è una questione di secondo grado, perché la Giunta e poi il Senato potrà decidere per la decadenza o invece per la permanenza del senatore Berlusconi in Parlamento, ma poi c'è una sentenza e sentenze non si possono discutere, ecco, entro definitiva, entro il 15 ottobre Berlusconi dovrà scegliere se andare ai servizi sociali o sì. ai domiciliari, e se sarà, poniamo, ai domiciliari, non potrà ricevere se non gli stretti familiari e gli avvocati, non potrà fare telefonate né riceverne se non con gli stessi soggetti, non potrà uscire dal suo domicilio se non autorizzato dal giudice di sorveglianza. Quindi sarà, se rimane senatore, lo rimane nominalmente, nel senso che non potrà esercitare la sua funzione. Sì, questo dal punto di vista tecnico è la procedura, ma davvero interessa, secondo lei, a tutti gli italiani? Cioè interessa sicuramente sapere se c'è un governo, cioè se questo avrà dei riflessi sul governo, però come la pongono i giornali, sono 15 pagine al giorno di questa telenovela, ma infinita. Io francamente quest'estate non ho mai sentito parlare la gente di queste questioni, quindi questo è vero. D'altro canto, stiamo parlando di un uomo che nel bene o nel male è stato protagonista della vita politica italiana negli ultimi 20 anni, quindi evidentemente, ripeto, non tanto la questione della decadenza, ma la questione che costui dovrà andare al gabbio, che non sarà il carcere, perché ha superato i limiti d'età, ma dovrà andare domiciliare, quindi non potrà esercitare le sue funzioni di senatore. Quindi il dibattito anche su questa questione della decadenza o meno, è un dibattito in un certo senso, ripeto, non è la questione principale. No, no, ma certo è che della decadenza, stando alle minacce politiche, nel senso alle conseguenze politiche, se dalla decadenza può arrivare anche una caduta e quindi una crisi del governo, questo è il senso. Certo, ma siccome le cose sono legate, è chiaro. Lei dice appunto, alla gente interessa che, siccome l'onorevole Berlusconi invece di avere la dignità di dimettersi lui, pretende ancora, nonostante la sentenza definitiva di condanna, un'altra sentenza seppur di primo grado di condanna, altri procedimenti in corso, di rimanere in pista, evidentemente ricatta, ricatta il governo, dice o fate come piace a me o io sbaracco tutto. Le questioni sono estremamente legate. Allora, insieme a Massimo Fini salutiamo anche il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Buongiorno direttore. Buongiorno. Dice, forse l'ha sentito adesso in coro, Massimo Fini, insomma, parlare di ricatto di Berlusconi, che non ha la dignità di dimettersi dopo una sentenza che è passata in giudicato. Intanto io l'avevo impostata anche sul fatto che questa telenovela forse agli italiani sta un pochino cominciando a stancare, solo che impatta sul governo. Oggi abbiamo scoperto che ci sono altre 48 ore, una settimana, quanto durerà ancora per il momento questa pace armata, politicamente parlando? Ma dunque, riguardo al ricatto, però la storia andrebbe raccontata tutta. Primo, vabbè, ma non entriamo, immagino non sia il tema di questa trasmissione, che in un paese normale è vero che fa un certo effetto vedere un ex premier che è condannato non si dimette, ma fa anche un certo senso vedere un tipo di giustizia di questo. In un altro paese un premier non è mai stato processato 48 volte. Non credo che gli altri premier siano tutti così migliori di Berlusconi da non dover essere processati 48 volte, o 40, quante diavolo sono. Ma soprattutto mi aggancio a quello che diceva Fini, e dico, ma come? Fini dice, ma è possibile che adesso ci sia sto ricatto? Cioè il premier dice, o fate quello che dico io, si sbaracca tutto. Ma 3 mesi fa il PD, quando ha fatto un patto di governo ed è andato a giurare al Quirinale praticamente insieme, metaforicamente, a Berlusconi, lo sapevano che arrivava una sentenza al di lì a pochi giorni e che quella sentenza sarebbe stata probabilmente una sentenza di condanna definitiva? Certo che lo sapeva. Certo che lo sapeva. Allora, se lo sapeva, è inutile che fai il furbo e mi tiri dentro, io e te lavoriamo insieme perché ti servo. E poi dopo mi dici, mi pugnali alle spalle e mi dici, beh no, ma tu sei stato condannato. Allora coi condannati non si va neanche al governo. È inutile mettere su tutto sto casino per farlo per poi rinfacciarlo dopo 2 mesi. Sì, l'idea era che allora era ancora un, come dire, nel nome del garantismo non era un condannato. Però Massimo Fini, però non credo che Massimo Fini voglia risparmiare anche il PD in nome di questa... ma vede, la questione non è fra PDL e PD. La questione è una cosa che riguarda tutti noi cittadini italiani e non è una cosa nostra fra questi due partiti per cui possono scambiarsi principi fondamentali del diritto. Il principio fondamentale del diritto è che un condannato sconta la sentenza. Il PDL ha ragione invece quando non sulla incostituzionalità della legge Severino, che essendo erga omnes vale per tutti, non vedo che come possa essere incostituzionale, ma sul fatto che se è una legge che ha riflessi penali, nel penale vige il principio della non retroattività della legge penale, ma a quello, meno che non sia più favorevole è quello, è quello il punto. Non è il caso di Berlusconi, quindi cioè più favorevole a lui, è sfavorevole, quindi deve valere per lui come per tutti il fatto che la legge non può essere retroattiva, quindi la legge non è incostituzionale, sarebbe incostituzionale o comunque illegittimo applicarla retroattivamente. Sì, tra l'altro il problema, Sallusti, è che è vero che il PD sapeva di questa alleanza, di questa sentenza in arrivo e quindi ha fatto, nonostante ciò, un'alleanza delle larghe intese, però è anche vero che Berlusconi, pur essendo leader del centrodestra, non fa parte del governo, e qui torna anche alla questione del come sia possibile, si chiedono molti, che il centrodestra non riesca a esprimere un leader che vada oltre Silvio Berlusconi, un problema che prima o poi si dovrà anche porre il centrodestra. Sallusti, sai, come tutte le cose di cui tu non hai bisogno, non le cerchi, non è che vai in giro, vai nei negozi a cercare una cosa di cui non senti la necessità, non hai bisogno. Siccome c'è il centrodestra, ha un leader che non solo ce l'ha, che è il padre fondatore, eccetera, eccetera, ma è anche super vincente, cioè è il miglior leader, parliamo elettoralmente parlando, che un partito potrebbe sognarsi di avere. Perché ogni elezione, adesso passatemi la semplificazione, poi in realtà 2 volte ha perso, è tutto da vedere come e quando. No, ogni elezione la vince praticamente da solo. E su questo non c'è dubbio. Centrodestra in questi anni avrebbe dovuto cercare una cosa ma che ha. Perché adesso c'è una condanna, non si può non farne i conti, voglio dire. Ma guardi, su questo credo che rispetto a una leadership del partito la condanna non sposta nulla. Nel senso, Grillo è altrettanto condannato, è altrettanto fuori dal Parlamento. Cioè la leadership è una cosa che non ha regole, è riconosciuta dalla gente. Berlusconi non sarà più leadership, non sarà più leader nel giorno in cui gli elettori gli diranno: sai cosa c'è Berlusconi? Questa volta c'è rotto. Non lo votano allora più. Non sarà più leader. Massimo Fini ha scritto un paio di editoriali anche su questo, a dire è il concetto del consenso, che però non può, secondo Massimo Fini, se leggo bene. Che non ci si riesce a ficcare il testo. Sì. È che il consenso non autorizza a commettere reati. Ma questo non c'è dubbio, però... Se no, allora dobbiamo stabilire un tariffario, dice, se tu hai 2 milioni puoi fare un furto, se ne hai 4 un furto con scasso, se ne hai 8 o 9 una frode fiscale, se ne hai 12 un assassinio, se ne hai 20 una strage. Beh, siamo fuori da ogni logica, no? E quindi poi Berlusconi può anche rimanere leader del partito, ma lo rimane alle condizioni stabilite dalla sentenza di condanna, che hanno detto sono tali per cui gli è difficile, gli sarà difficile. Sì, ma non credo che Berlusconi voglia tornare in Parlamento. Cioè, nel senso, io non so che cosa crede Berlusconi, né mi interessa. A me quello che interessa da sempre, e su questo da sempre scrivo, e Sallusti lo sa, perché ci conosciamo bene, è che siano rispettati i principi fondamentali del diritto, che valgono per tutti. E come vale la irretroattività della legge, in questo caso favorevole a Berlusconi, vale il principio che chi è condannato va al gabbio, punto. Su io questo... andrei al gabbio, non ho capito. Andrei al gabbio. Sì, certo. Sallusti, la questione effettivamente che, da cui non si esce è questa. Per paradosso, se Berlusconi viene assolto, secondo il Popolo della Libertà o i suoi sostenitori, ecco, vedete, viene assolto, non ha commesso reato. Quando viene condannato è perché la magistratura è politicizzata. Con questo principio, per legge non potrà mai essere condannato se non frutto di una magistratura distorta. Cioè, non è un'impostazione, come dire, avete sempre ragione voi, uno vi può dire a questo punto, no? No, beh, come dire, c'è un po' del vero in quello che dici, nel senso che è una cosa anche abbastanza, un fatto naturale, e non è che riguarda solo i berlusconiani, quello di voler sempre sterzare la verità a proprio favore è un fatto abbastanza naturale. In questo caso il favore mio non è un interesse personale, ma un interesse d'area, no? Io non ho una tessera del PDL, ma sicuramente voto Berlusconi, perché in quanto liberale, in quanto moderato. Però io dico questo, uno dice, attenzione, cioè viene inchiodato alla sentenza, ma quante diavolo di sentenze sbagliate che si sono poi provate a distanza di tempo, di anni, sbagliate, sono state fatte. Ma allora non applichiamole a nessuno. Io dico, allora, in base a una sentenza, la sentenza si deve subire, non accettare. Quindi devi andare in prigione, devi andare agli arresti domiciliari, devi andare, ma non perché lo accetti, perché lo subisci, perché la cosa più inquietante di quella sentenza non è tanto, non è tanto gli aspetti tecnici, procedurali, testimoniali, di cui non mi addentro, non sono un avvocato, ma che in sentenza, per arrivare a una condanna così pesante che provochi la decadenza, si scriva che Berlusconi è un evasore abituale, quando è il primo contribuente italiano, è una contraddizione in termini. Cioè, io ti dico che sei un evasore abituale, a te primo contribuente italiano, perché soltanto dicendo che sei abituale posso darti 4 anni e quindi farti probabilmente nel procedimento che è stato accertato, forse abituale nel procedimento in questione, ecco. No. L'evasore abituale, io so qualcosa, perché anch'io sono un delinquente abituale. Alla settima condanna sono delinquente abituale. Ma mi chiedo perché gli altri giornalisti all'ottava non lo sapevano. No, questa sì, è un'altra vicenda del passato, fortunatamente. Allora, vogliamo sentire anche il polso degli ascoltatori prima di tornare da Alessandro Sallusti e Massimo Fini. Osvaldo dalla provincia di Vicenza, buongiorno Osvaldo. Salve dottor Milan, sono veramente felice di parlare con lei. Allora, io volevo dire che di Berlusconi non me ne frega assolutamente niente, che poi sia il primo contribuente o l'ultimo, se ha evaso, ha fatto anche lui l'evasione e deve essere condannato. Seconda cosa, condannato. Velocissima, di questo governo se cade non fa niente, per cui se anche va a farsi benedire non gliene frega niente di niente. No, aspetti, me ne frega che sono appena stato in una ditta che era di 250 dipendenti, adesso sono 200 e la settimana prossima saranno in 150. Certo, certo, e questa è una preoccupazione giusta, ma non crede Osvaldo che debba essere un governo stabile e che faccia le cose il primo a risolvere? Con i fatti, perché qua mi sembra che tutti vogliono fare ma nessuno fa. Cioè, se c'è la spesa pubblica, che io dico che la spesa pubblica è la cosa più importante da eliminare, da ridurre. Diciamo, e tutti ne parlano, ma nessuno lo fa. Quello allora, è il problema. Però Osvaldo, stia tranquillo, arriva la task force della Spending Review, la task force pare che arrivi. Grazie Osvaldo. Andrea Milano da Loredana, buongiorno Loredana. Buongiorno dottor Milan, buongiorno a tutti. Io sono in linea con quello che dice Osvaldo, ma sono molto arrabbiata, molto frustrata, perché è incredibile che in questo paese, con tutte le rogne che abbiamo, siamo ancora qui in punta di diritto a dibattere su Berlusconi. Non gliene frega niente a nessuno. Berlusconi è stato condannato, c'è una legge che prevede che non sia più agibile politicamente, che anche come termine è assurdo. Deve andarsene, punto. Perché il resto del governo, anche questo balletto cade il governo, non cade il governo, Ha ragione Osvaldo, questo governo non ha fatto niente, ci cioè, abbiamo messo 3 mesi per averlo e hanno iniziato a litigare sull'IMU. L'IMU è l'ultimo dei problemi italiani, abbiamo avuto l'ICI fino all'altro ieri, nessuno ne ha mai parlato. Questa discussione sull'IMU è una discussione fasulla per far credere che stiamo decidendo qualcosa. Mio figlio ha iniziato l'anno scolastico e non ha la lavagna in classe, non la lavagna elettronica, attenzione. Sì, la lavagna. Quella col gesso. E ieri ascoltavo il ministro dell'istruzione, perché vi seguo quasi tutte le mattine mentre vado a lavorare, in un'azienda che ha messo in cassa integrazione 50 persone su 500 quest'anno, ok? Il ministro ieri diceva che voleva informatizzare la scuola e dare il tablet. Ci hanno obbligato a febbraio a iscrivere i nostri figli su internet, e va benissimo, io mi collego a internet e l'ho iscritto. Quando sono andato in segreteria a perfezionare l'iscrizione, ho scoperto che avevano copiato a mano su dei fogli protocollo tutte le informazioni delle iscrizioni dei bambini. Questo per dire dell'informatizzazione, ma certo. Mi faccia finire, poi vi lascio avanti. Il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di che cosa sia la vita dei cittadini, e quando dicono la stabilità del governo per il popolo non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare in un call center con un contratto CocoPro e il capo che gli cronometra le telefonate, e dovrebbero mandare tutti i loro figli alla scuola pubblica ad accapigliarsi con la preside perché non c'è la lavagna in classe, perché alla prima riunione ci dicono, sapete cosa ci dicono? Portate la carta igienica. Questo è il paese reale e tutto il resto, perdonatemi, sono fandonie. Loredana è stata talmente efficace, come vede, non so come dire, ecco, dico, non si candidi, se no poi la gente la vota e poi dopo rischia di entrare dall'altra parte. Loredana, il suo sfogo, mi perdoni la battuta, ma il suo sfogo è assolutamente condivisibile, io lo condivido dalla prima all'ultima parola, cosa le devo aggiungere di più? La ringrazio intanto, Loredana da Milano. Massimo Fini, questo a dire uno ha scontato la sentenza, va dal Gabbio, che peraltro scrive sempre sul Fatto, dà la stura a dire, non ecco, Gabbio in genere, vabbè, scrivo carcere. No, però Gabbio l'ha scritto l'ultimo di sì, va bene, non me ne perdo uno. Celine, ah, ecco, non me ne perdo uno, per cui non mi può fregare. Dà l'idea e la stura agli avversari, tra virgolette, politici o i sostenitori di Berlusconi a dire, ecco, volete con giacobinismo eliminare politicamente un avversario per via giudiziaria. Ma questo si basa su un teorema, cioè il teorema che Berlusconi sia a priori innocente, è un assioma, cioè se lo condannano è una prova che c'è un accanimento contro di lui, se lo assolvono è una prova che c'è un accanimento contro di lui per tutte le altre sentenze che invece l'hanno eventualmente condannato. È indistruttibile questa cosa. In quanto a quello che diceva Sallusti, nessun premier ha avuto 46 processi eccetera eccetera, però voglio dire il dubbio, voglio dire, perlomeno che quest'uomo abbia commesso dei reati ci deve essere, oltretutto, ci dovrebbe essere, oltretutto, voglio dire, non è che possono valere solo, una volta parlando con Cirino Pomicino a un talk show, Cirino Pomicino disse, ma io sono stato assolto in 20 processi, e io gli dissi, sì, però in 2 è stato condannato, dice, ma quelli non valgono, allora non valgono neanche le sue 20 assoluzioni. Ma Cirino Pomicino è una delle classiche frasi alla Cirino Pomicino, devo dire. No, ma voglio dire, questa è una logica elementare che abbiamo abbiamo perduto. Sì. C'è un'altra cosa, sì. La signora si lamenta di una serie di cose. Chi ha governato in questi ultimi 20 anni? 2 partiti, PDL e PD, no? Non possono essere questi stessi che hanno mandato allo sfascio il paese, che adesso sono al governo, a fare il governo. E questo è il punto, se si vuole, politico di fondo. Questo visto che... ma certamente, ma chissà se rimarranno. Io mi devo fermare qui e vi ringrazio. Alessandro Sallusti, direttore del giornale, Massimo Fini, scrittore, e che potete leggere anche sul Fatto Quotidiano. Potete riascoltare tutto, anche l'accorato appello della nostra ascoltatrice Loredana da Milano, su radio24.it c'è il podcast, mi trovate su Twitter Alino Milan e trovate anche la redazione, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Anita Panizza, Miriam Lucchetti, tutti insieme al nostro mitico Peter Bescapè. A domani alle 6.30.